Storiacce di Raffaella Calandra. Signor Turchesi, io volevo... Lo Turco, vorrei fare una domanda. Lei ha mai fatto il biglietto da visita false, sì? Come sarebbe a dire? No, dico, sul biglietto da visita uno ci può scrivere quello che vuole. O ci vuole una regola statale, parastatale, che so. Ma no, che statale? Uno sul biglietto da visita scrive quello che vuole. Se è commendatore, scrive commendatore. Se è cavaliere, scrive cavaliere. Se è titolato, beh, ci metti il titolo. Okay. Ce ne sono, anzi, che più si credono importanti. E meno sono. Qualcosa. Magari sono dei falsari. Falsari che di giorno fanno un mestiere e di notte fabbricano monete. Ci provò già Totò con la sua banda degli onesti a mettere su una fabbrica di soldi nel retro bottega di una tipografia. E da allora ad oggi molti altri ancora l'hanno fatto ai piedi del Vesuvio, così nel tempo, così come è diventata la fucina indiscussa dei presepi, Napoli è diventata anche la capitale mondiale del falso, il laboratorio più grande di soldi spacciati in mezza Europa e non solo, e soprattutto, ed è quel che ora preoccupa anche la Banca Centrale Europea, sta mandando in giro i suoi esperti a fare scuola. Da qui allora, dalla capitale mondiale del falso, parte questa puntata di Storiacce. Sulla strada un negozio di alimentari o l'officina di un meccanico, dietro una stamperia in grado di sfornare soldi, ma pure all'occorrenza abbonamenti per i mezzi pubblici, tesserini delle forze dell'ordine e, perché no, biglietti dello stadio per le partite del Napoli. Come fanno da secoli i maestri di San Gregorio Armeno con le statuine del presepe, così viene trasmessa di padre in figlio anche l'arte della falsificazione delle monete, antica probabilmente quanto la prima e divenuta nel tempo forse ugualmente famosa. O meglio, bisognerebbe dire famigerata, tanto che negli atti delle polizie di mezzo mondo è chiamata con un solo nome, Napoli Group. È questo il marchio di fabbrica a cui si riconduce la quasi totalità della produzione mondiale di soldi falsi, piazzati poi soprattutto in Lombardia e a Roma in Italia, ma sempre di più anche nei paesi dell'est e in Africa. Soldi come quelli trovati nell'ultimo blitz, con 56 arresti da parte del nucleo antifalsificazione monetaria dei carabinieri, guidati dal colonnello Francesco Ferace, che dice il 90% del falso è made in Naples. Questa è una valutazione che abbiamo fatto con altre forze di polizia europee come Europol. Riteniamo che il 90% della contraffazione mondiale dell'euro avviene tramite gli esperti tecnici e i grafici di questo famigerato Napoli Group. Ecco, spieghiamo che cos'è Napoli Group. In buona sostanza è una classe di contraffazione. C'è un livello di contraffazione molto alto? No, è un livello di contraffazione sofisticatissimo, in grado di ingannare chiunque. Dove venivano materialmente stampate e riprodotte? Una in Campania, una nel Lazio. Il vero problema è disporre di tecnici in grado di concepire e di organizzare il business. Poi la realizzazione materiale può avvenire dappertutto, tant'è che noi abbiamo tecnici di questa Napoli Group, esperti, presenti in molti paesi d'Europa. Davanti a tutto questo stupisce che poi abbiano cercato di mettere in mercato delle monete inesistenti, come quella da 300 euro. Quello è un fatto accaduto mesi fa, che è stato citato come per ribadire la particolare capacità tecnica e la fantasia di queste persone che avevano realizzato un prototipo e lo avevano piazzato in un mercato del Nord Europa. Maestri del falso, come già della pizza e del presepe. Ora i napoletani vanno dunque anche ad insegnarlo all'estero e l'euro in questo ha spalancato, bisogna dirlo, un mercato dalle dimensioni incredibilmente più ampie. Per spacciare soldi falsi, ma ora sempre di più per formare nuove squadre. Capita così che i tecnici partenopei siano richiesti in Romania, ad esempio, per trasmettere il loro know-how, rivela Alessandro Langella, che guida da Napoli le operazioni della Guardia di Finanza. Da un lato, il fenomeno del falso monetario, come riconoscono anche gli studi, nasce storicamente in Campania e in particolare a Napoli. Queste banconote vengono prevalentemente ritirate dalla circolazione altrove. In Italia, ad esempio, la maggior concentrazione di banconote sospette di falsità è stata riscontrata nelle regioni del nord-ovest. In particolare è la Lombardia la regione in cui è stato individuato il più alto quantitativo di banconote sospette di falsità. come mai storicamente è Napoli la capitale dei falsari? Qui abbiamo un know-how che poi è stato trasferito anche per via familiare. Sono saperi tecnici estremamente specializzati che a volte vengono tramandati anche per via familiare, soggetti che hanno una grande capacità tecnica, delle grandi abilità tecniche, provenienti dal mondo tipografico, soprattutto a volte anche con una vena artistica. Possiamo dire che sono luoghi che nascono come tipografie e che poi si sono convertiti anche alla stampa di monete false, proprio come nel film di Totò. Sì, si tratta di soggetti provenienti dal settore della tipografia sicuramente. Ormai il Napoli Group si può considerare quasi un brand delle banconote falsificate, soprattutto dei tagli da 20, 50 e 100 euro. Esiste una stima più o meno di quanti possono essere i falsari a Napoli? Delle cerchie ristrette di soggetti. Però allo stesso tempo queste organizzazioni hanno iniziato a delocalizzare. Ad esempio in quali paesi? Nei paesi dell'est. Un grosso risultato di servizio c'è stato in Romania. Quanto più la maestria aumenta, tanto più il numero delle persone in grado di riprodurre banconote quasi perfette che traggono in inganno talvolta anche gli uffici cambi si riduce. Si calcola però che sotto quel Napoli Group ci siano almeno 11 sottogruppi con mansioni diverse che solo quest'anno hanno sfornato almeno 300.000 monete false per un valore ancora da quantificare. Ma al top restano loro, restano gli istruttori, quei grafici, disegnatori e tecnici e protagonisti del falso d'autore. Altra storia rispetto a quanti avevano provato a spacciare in giro anche banconote inesistenti, come quella ad esempio da 300 euro che pure è stata sequestrata nel napoletano. Al nucleo falsificazione del colonnello Ferace lo sanno bene quanto siano bravi. Poi evidentemente si sono particolarmente affinati grazie alla capacità, all'abilità, alla fantasia e si sono organizzati con una veri e propri network associativi. Sono grafici, sono tecnici, sono gente preparata, gente capace, con una consuetudine tecnica specifica che li ha portati a essere dei veri e propri istruttori all'estero. Falsificatori campani sono stati localizzati e individuati in molti paesi d'Europa, Francia, Spagna, Germania, Albania, Romania, Bulgaria, Slovacchia. Anche in questo caso, nel caso dell'ultima, di quest'ultima operazione, poi la maggior parte di questi soldi falsi si cercava, diciamo, di farli arrivare in altre parti d'Italia. Perché? Perché a Napoli poi venivano a rifornirsi. Quindi può essere considerata un po' Napoli il punto dove vanno a rifornirsi gli altri che sono sparsi un po' in tutta Italia? E la Campania sono un po' la mente, e la fantasia e la capacità realizzativa. Poi monete false ne troviamo in giro per tutta Italia e in tutta Europa. Novembre scorso l'Arma dei Carabinieri ha sequestrato in una sola stamperia in provincia di Verbania la bella cifra di 77 milioni di euro. C'era un collegamento con la Campania? Sicuramente sì, la matrice era del Napoli Group. Si ha un'idea di quante persone compongano questo Napoli Group? Quelli che abbiamo colpito con l'ultima operazione sono il livello distributivo. È un giro piuttosto affollato di persone. No, avete parlato di 11 organizzazioni, se non sbaglio. 11 sottogruppi che si occupavano dello smistamento in varie zone d'Italia ed Europa. Quindi sottogruppi che una volta presa la moneta falsa avevano il compito appunto di diffonderla, ripiazzarla ad altri acquirenti. La centrale non solo della distribuzione materiale, ma anche della distribuzione ideale, del momento organizzativo della contraffazione monetaria. Tecnici di questo Napoli Group sono stati individuati e localizzati in vari paesi d'Europa e qualcuno anche in Africa. L'Africa, nuova prateria anche per i soldi falsi dunque. Sfruttato in origine per le materie prime, sfruttato per la sua manodopera, ora anche dai cinesi, il continente nero è pure la piazza immensa dove i falsari cercano di spacciare gli euro per lo più made in Naples. E ci riescono alla grande a giudicare dai fatti, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce, dove cercheremo poi anche di capire che cosa noi possiamo fare per evitare di farci rifilare dei soldi falsi. E poi ancora ci saranno, come sempre, le mitiche storiacce e l'angolo della vostra segnalazione. A tra poco. Mi raccomando, Fatevi dare un biglietto da 10.000, bello, grande. Sì, me lo faccio dare due piazze. Gardò, quelli biglietti da 10.000 lire è misura standard, per carità. Beh, ci vuole più rosso. Rosso, rosso, subito il rosso. Ecco il rosso. Se permettete lo metto. Sì, per carità. La cornice è proprio quella. La cornice è la morte sua, eh? È precisa. Maestro, tocca a voi. Ah, sotto. Sì, sì, sì. Non ha torto, Totò chiamava maestro il tipografo arruolato nella sua perfida impresa di stamparsi da soli quei soldi tanto vagheggiati. E la crisi pare abbia fatto venire ancor di più certe fantasie criminali sotto al Vesuvio, dove nell'arte di falsificare soprattutto pezzi da 20 o 50 euro i napoletani non hanno concorrenti, come per la pizza un po', o il presepe potremmo dire. Napoli, capitale del falso, abbiamo intitolato questa puntata di Storiacce. E se quello che avete sentito nella prima parte non vi è ancora bastato, entrate con noi in questa stamperia tuttofare, trovata dalla Guardia di Finanza, guidata dal colonnello Langella, a Torre Annunziata. Qui ogni sogno, in un certo senso, era possibile, da quello dei soldi a quello di entrare allo stadio. In una stamperia che abbiamo individuato e sequestrato nella zona sud della provincia di Napoli, abbiamo trovato una vera e propria centrale del falso. Veniva impiegata non solo per la realizzazione di banconote falsificate, nel caso specifico soprattutto banconote da 10 euro, ma anche per realizzare tutta un'altra serie di documentazione falsi, dai biglietti del trasporto pubblico, ad esempio, a tessere di forze di polizia, fino ad arrivare anche alla contraffazione dei biglietti per lo Stadio San Paolo per andare a vedere le partite del Napoli. Ecco, e tutto questo veniva rivenduto come, in che canali, in che modo? Il maggior numero di banconote falsificate viene ritirato dalla circolazione altrove, in particolare la Lombardia è la regione in cui è stato individuato il più alto quantitativo di banconote ritirate dalla circolazione, oppure se vediamo il dato provinciale è Roma, la provincia in cui sono state individuate più banconote falsificate. Abbiamo trovato dei macchinari offset molto performanti e banconote già realizzate, pronte per essere smerciate per un controvalore facciale di addirittura 8 milioni di euro. Monete anche ne abbiamo trovate. Tipo di che esempio? Del taglio di un euro, quindi una vera e propria zecca clandestina che coniava monete da un euro. Il Napoli Group, sigla con cui in tutto il mondo si indicano i produttori del 90% di soldi falsi, sono gettonati come i più esperti artigiani della sartoria o gli stilisti di pelle. I pezzi forti sono quelli più piccoli, facili da spacciare con più leggerezza nei piccoli negozi, quelli quotidiani, racconta il colonnello Francesco Ferace del nucleo antifalsificazione dei carabinieri. Per la banconota da 500 euro, invece, altri erano stati i problemi, soprattutto di riciclaggio, che avevano fatto pensare anche ad una possibilità di richiamarla dalla circolazione. I tagli da 20 e da 50 euro risultano i più diffusi, ma anche la moneta da 1 e 2 euro risulta abilmente falsificata. Sono monete che negli scambi commerciali ordinari, quotidiani, possono essere tranquillamente piazzate in qualsiasi esercizio commerciale, in qualunque fiera. Ma quindi per lo più vengono, si cerca di piazzarli anche in piccoli esercizi? Purtroppo sì, e questo è il fenomeno che mette poi in crisi le economie locali. Però il problema della contraffazione europea, quindi mondiale, è un problema sufficientemente sotto controllo. Esistono stime su quante monete false vengano ritirate ogni anno in Italia? Non abbiamo ancora chiuso l'anno, ma insomma finora abbiamo ritirato dal mercato circa 300.000 pezzi di monete di vario taglio falsificate. Se questa è la situazione, noi possiamo almeno attrezzarci per cercare di non farci fregare. Un piccolo vademecum dalla Guardia di Finanza. Il cittadino che entra in possesso di una banconota falsa sicuramente non deve spenderla, perché altrimenti commette un reato, ma deve portarla presso sportelli di banche commerciali, uffici postali o filiali delle banche della Banca d'Italia. Qualora risultasse falsa, al cittadino non spetta alcun rimborso. Viceversa, il cittadino viene rimborsato se la banconota risulta invece autentica. Come riconosciamo una moneta, una banconota falsa? Sono tre le azioni: toccarla, guardarla e muoverla. Toccarla perché le banconote portano tutta una serie di elementi in rilievo. La banconota va guardata perché in controluce appare un disegno in trasparenza, la filigrana, il filo di sicurezza e il numero in trasparenza. E poi muoverla perché muta l'immagine dell'ologramma posto sul fronte del biglietto. In genere, incrociando due o tre di queste azioni, ci si rende conto se la banconota è autentica o meno. Per vedere poi per ogni singolo taglio quali sono le caratteristiche di sicurezza, sul sito della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea sono indicati quali sono gli elementi di sicurezza delle banconote. Abbiamo detto che quella del falso è un'arte antica e di fatto già pure nell'antica Roma facevano i conti con le monete false in circolazione, ma i maestri furono gli antichi greci. E allora spazio, come sempre a questo punto, a Giorgio Geranò, professore di greco e autore di Olympos e di altri libri sulla mitologia. Mitiche storiacce. I primi grandi falsari furono gli dei dell'Olimpo. Non falsificavano monete, ma persone. A scuola ci hanno raccontato come Elena fu rapita da Paride, che se la portò a Troia. Fu l'origine della favolosa guerra troiana, perché il marito tradito, Menelao, re di Sparta, organizzò una spedizione armata per riprendersi la moglie. Ma c'era un mito alternativo sulla guerra di Troia. La dea dell'amore, Afrodite, avrebbe plasmato una falsa Elena, un fantasma fatto di aria, nascondendo quella vera in Egitto. Paride, ingannato, si sarebbe portato via la falsa Elena e tutti i caduti davanti alle mura di Troia sarebbero morti per un fantasma. Un'astuzia della dea, Afrodite, che voleva preservare la sua protetta, Elena, la donna più bella del mondo. Il poeta Euripide, nel V secolo a.C., racconta questa storia in una sua tragedia e dice: Afrodite ha ottenuto la sua vittoria pagando in moneta falsa. Certo, anche i greci sapevano distinguere una moneta falsa da una buona. La pietra di paragone, che gli antichi chiamavano pietra di Lidia, permetteva con lo sfregamento di riconoscere l'oro puro. Il poeta Ovidio racconta nelle sue Metamorfosi che questa pietra in origine era un uomo, un pastore di nome Batto, che aveva visto il dio Hermes, signore dei ladri, rubare una mandria di buoi. Aveva promesso di non svelare il furto: sarò muto come una pietra. Ma poi aveva tradito la promessa ed Hermes lo aveva trasformato appunto in quella pietra che smaschera i truffatori. Nelle mitiche storiacce, purtroppo, gli dei stanno spesso dalla parte del crimine e chi li denuncia lo fa a suo rischio e pericolo. E forse qualcosa di questa abitudine citata nelle mitiche storiacce è rimasta anche oggi, ma questa è un'altra storiaccia. In chiusura, come sempre, invece lo spazio alle vostre segnalazioni. Andiamo questa settimana ad Ancona e andiamo in via Villeroi 2. È la signora Antonietta Brandoni a scriverci. Da più di 8 anni il nostro appartamento, che avevamo acquistato nei primi anni 90 come piede a terra, lavorando mio marito come infermiere ed io, scrive come preside ad Ancona, da più di 8 anni è nelle mani di persone che lo hanno occupato abusivamente, ci hanno fatto e ci fanno i loro comodi e noi paghiamo tasse, spese condominiali e quanto altro. Colmo dei colmi, la giudice, leggo sempre dalla lettera della signora Antonietta Brandoni, non ci dà ragione. Dice che la casa non è occupata da quelle persone perché, testuali parole, nessuno ha risposto al campanello quando ha mandato a controllare. Non c'era il nome dell'abusivo sulla porta. Risultava residente in un'altra abitazione e i vicini della vecchia residenza non l'avevano più visto da più di 2 anni. La polizia dice che non può farla uscire, che io devo fare causa. Ma io non mi fido più della giustizia. Domani riprendo la protesta. La signora Brandoni ci aveva fatto sapere che si era incatenata. Riprendo la protesta fino a quando non la fanno uscire da casa mia. sul blog Storiacce tutti i dettagli di questa dolorosa segnalazione, come spesso sono quelle che voi ci scrivete. Ma se anche voi volete sottoporci la vostra storiaccia, scriveteci una mail oppure scriveteci su Facebook alla pagina di Storiacce. Ricordate, Storiacce. Su Twitter invece mi trovate all'account Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.